Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, puntata del sabato. Siamo entrati nel mese di luglio, le scuole sono finite. E lo dico perché, lo ricordo perché nella puntata di settimana scorsa avevamo avuto occasione di leggere una lettera molto bella, molto interessante, di una signora, peraltro insegnante, che aveva avuto la figlia bocciata e che insomma metteva un po' sotto accusa le disattenzioni della scuola. Allora, proseguendo in questo filone di fare attenzione anche alle lettere dei magazine, perché in realtà spesso le lettere che vengono inviate, che vengono pubblicate dalle riviste, possono rivelarci, possono dirci qualcosa di altrettanto valido quanto le inchieste e gli articoli dei giornalisti. Bene, allora, che cosa ha fatto Vanity Fair questa settimana? Ha pubblicato una risposta di un'altra insegnante a questa signora che lamentava la poca attenzione della scuola nei confronti di sua figlia. E infatti l'esordio è proprio: sono un insegnante e vorrei rispondere alla signora che nel numero precedente sfoga la sua amarezza per la bocciatura della figlia. Nessuno dei professori, scriveva questa signora, ha cercato di capire cosa si nascondesse dietro quel numero, quindi la signora aveva trovato un ambiente poco attento, a dir secondo le sue parole, nei confronti dei problemi della figlia. In realtà, ecco, la signora Adriana, così si firma questa lettrice che scrive a Vanity Fair, è diciamo abbastanza severa con questa posizione e dice: noi siamo, come insegnanti, ci rendiamo benissimo conto, e lei pure che è un insegnante saprà che si cerca sempre di capire cosa c'è dietro un'interrogazione andata male o un compito sbagliato, però dice altre volte capita che dietro un compito andato benissimo ci siano magari una famiglia sbandata oppure una vita tutt'altro che semplice. E scrive: potrei raccontarle di una ragazzina romena che non ha potuto comprarsi neanche un libro perché gli immigrati senza permesso non hanno diritto al buono libri, ma che ha appena superato l'esame con un 9, o di un ragazzo cinese, si ha idea di che cosa voglia dire per un cinese imparare in pochi mesi l'italiano, che in prima superiore farà il salto perché è troppo avanti. Non dico questo per portare alla figlia di questa insegnante esempi di alunni che hanno avuto successi a fronte di difficoltà a prima vista un po' più grandi del voltafaccia di un'amica o di una delusione. So bene che tutto sta a come si vivono queste difficoltà, però forse chi è abituato fin da piccolo a scontrarsi con i problemi della vita è un po' più preparato ad affrontare quelli della scuola, anzi il più delle volte non li vive neanche come problemi ma come momenti privilegiati. E così questa lettera, in qualche modo, oltre a reagire alle accuse di poca attenzione agli insegnanti, ci pone di fronte anche il problema dell'integrazione, del confronto appunto con altre realtà che non sono quelle abituali nostre. Dice: nessun genitore di questi ragazzini, intende questi ragazzini con integrazioni difficili, vengono da famiglie straniere, da paesi stranieri, è mai venuto a lamentarsi per i troppi compiti. Anzi, la madre di una bambina ucraina da poco arrivata e già prima della classe venne a chiedermi se potevo assegnare qualche compito in più, perché da noi, mi disse, la scuola è come posto di lavoro, ma lavoro duro. Io credo, conclude questo insegnante, che oggi i genitori entrino troppo nella vita scolastica dei figli e che così facendo li aiutino poco a entrare anche in quella extra scolastica. Allora, visto che parliamo di scuola, cambiamo completamente testata, andiamo invece all'estero, su Nouvel Observateur, rivista francese. È stato chiesto a un professore universitario, che tra l'altro è anche direttore di un istituto di ricerca dedicato proprio alla pedagogia, all'insegnamento, quali sono i tempi ideali di apprendimento dei bambini e dei ragazzini. E innanzitutto il professor Hubert Montagnier, questo è il suo nome, segnala come in Francia gli studenti, gli scolari, quindi già parliamo delle scuole elementari, abbiano la giornata più lunga e pesante di tutto il mondo occidentale. È richiesta ai ragazzi una forte mobilitazione delle risorse intellettuali proprio in momenti in cui invece queste non sarebbero ottimali. Da qui però deriva poi una tabellina che può essere anche, diciamo, utile al di fuori dei confini francesi, quindi per questo ve ne do una rapida lettura. Spiega infatti il professor Montagnier: se ci si sveglia intorno alle 7, i bambini non sono realmente reattivi fino alle 8:30, 9:30, e quindi i bambini non sono veramente reattivi tra le 8:30 e le 9:30, che però è uno dei momenti in cui hanno spesso da affrontare le maggiori difficoltà, i compiti in classe. Per quanto riguarda la pausa del mezzogiorno, dice, è un momento in cui, questo è abbastanza noto, insomma, si ha una diminuzione della vigilanza e una serie appunto di difficoltà a mantenere l'attenzione anche in campito scolastico, e in realtà il momento migliore dovrebbe essere alla fine del pomeriggio e alla sera, quindi tra le 4 del pomeriggio e la sera è un momento in cui il nostro organismo è meglio disposto all'apprendimento, anche l'apprendimento di sport, di attività fisiche. È evidente che tutte queste indicazioni coincidono poco, non solo con la scuola francese, ma anche con quella italiana, però credo che si possa solo parzialmente cercare di ovviare a questi contrattempi, a queste contraddizioni tra le reazioni dell'organismo e quella che è invece la richiesta della scuola e l'organizzazione dei tempi in generale. E restiamo in qualche modo in ambito di famiglia, passiamo a Famiglia Cristiana. Da Nouvel Observateur veniamo a Famiglia Cristiana, perché Famiglia Cristiana già dalla copertina annuncia il suo tema della settimana, è quello della vacanza con i figli. In vacanza con i figli c'è un titolo che già spiega quale deve essere il senso della vacanza con i figli, tutti insieme lentamente, perché spesso le vacanze con i figli hanno magari un andamento frenetico che non fa bene né ai genitori né ai figli. Questo si desume dal lavoro che viene presentato da Renata Maderna, Simonetta Pagnotti, Pino Pignatta e Orsola Vetri su Famiglia Cristiana di questa settimana. C'è un dato che ci dice, che appunto ci conferma la necessità delle vacanze di tutta la famiglia. L'86% delle famiglie ha fatto una vacanza di almeno 4 giorni insieme ai figli nel 2009, quindi è una attitudine assolutamente diffusa. Molto diffusa. È il tempo, un tempo naturalmente complesso da vivere, perché spesso le esigenze dei genitori e dei figli non sono esattamente coincidenti. E qui mi fa piacere citare Alberto Pellai, che proprio a Radio 24 è spesso appunto ospite di questa casa, non è un albergo, e Alberto Pellai viene intervistato anche da Famiglia Cristiana e dà una serie di indicazioni. Dice: le vacanze sono un'ottima occasione per testimoniare ai figli un altro modo di stare insieme con il proprio compagno. Quindi i gesti, le parole, il ritmo rallentato degli adulti interpretano al meglio l'educazione affettiva. Anche per questo motivo sono sconsigliabili le cosiddette vacanze staffetta, cioè quelle vacanze che alcuni genitori scelgono prendendo le ferie a turno per coprire un periodo di vacanza dei figli più lungo possibile. In questo modo si sta un po' con l'uno, un po' con l'altra, ma non è una modalità che il dottor Pellai consiglia, medico e psicoterapeuta appunto, nonché notissimo agli ascoltatori di Radio 24, consiglia come ideale. I punti poi diventano ancora più complessi, i punti su cui interrogarsi diventano ancora più complessi quando l'età cresce, perché quando si ascoltano, scrivono le autrici, mamma e papà degli adolescenti, dei ragazzi più grandi, ci sono generalmente due problemi: trovare qualcosa di interessante, di costruttivo da far fare ai figli, e poi però avere anche in vacanza un certo controllo sulle loro frequentazioni. Questo non sempre è facile. Per quanto riguarda invece le vacanze dei figli e non con i figli, anche qui Famiglia Cristiana presenta una serie di indicazioni. Tra l'altro apprendo che 10 anni è l'età media in cui i ragazzi cominciano a fare le prime esperienze di viaggio in autonomia, naturalmente accompagnati da qualche istituzione, dalla scuola, da qualche organizzazione. Un'ultimissima indicazione che viene da Famiglia Cristiana a proposito di vacanze con i figli è l'attenzione alla guida. perché appunto il modo in cui tanti genitori proteggono o non proteggono, leggo da Famiglia Cristiana, i bambini nell'abitacolo, ecco, questo è molto importante. Sulle strade si vede un po' di tutto, ci sono seggiolini magari non omologati o bambini seduti davanti o in piedi tra i sedili. Questi sono comportamenti molto pericolosi che bisogna naturalmente assolutamente evitare quando si decide di viaggiare con i bambini, anche se ovviamente la macchina è carica, non è spesso facile sistemarsi al meglio. E poi c'è un'ultima cosa da Famiglia Cristiana che può essere importante sapere con l'estate, quindi quando c'è più attenzione da parte nostra al tempo che fa, perché evidentemente tutti desideriamo trovare il tempo migliore per le nostre vacanze. Ho scoperto da una segnalazione di Mario Giuliacci, che proprio da questa settimana, da questo numero, inizia a collaborare con Famiglia Cristiana, che i meteorologi preferiscono le donne dai capelli rossi. Vi leggo precisamente di cosa si tratta. Naturalmente i capelli tutti sappiamo che sono molto sensibili all'umidità dell'aria, tanto che più l'aria è secca più si accorciano. Al contrario, si allungano anche di molto con aria molto umida, quindi pioggia, nebbia o afa, fino a formare in casi estremi pieghe o riccioli. I capelli più sensibili all'umidità sono quelli delle donne rispetto a quelli degli uomini, specie se con capelli biondi. Meglio, scrive Giuliacci, meglio ancora se rossi. Infatti lo strumento principe che viene impiegato in meteorologia per misurare l'umidità dell'aria si chiama igrometro a capelli ed è costituito appunto da un fascetto di capelli, possibilmente di donne con i capelli rossi, e quindi i capelli rossi sono i migliori sensori per valutare l'umidità dell'aria. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di viaggi, di vacanze in famiglia. Restiamo sul tema con Panorama. Panorama questa settimana presenta, a cura di Alessandra Gerli, una bella doppia pagina che si intitola "Stringete la cintura, c'è il sovrapprezzo". Di cosa si tratta? Beh, immagino che molti di voi abbiano avuto occasione di sfruttare le occasioni dei voli low cost. Ecco, tra i voli low cost però sta sempre più aumentando l'abitudine a chiedere qualche piccolo extra. Piccolo si fa per dire, perché poi arrivando a sommare i vari extra che si possono avere, in effetti il biglietto diventa un po' meno low, cioè basso costo. Cosa spiega Alessandra Gerli? Dice: l'invenzione più clamorosa è di una compagnia americana, la Spirit Airlines, prima al mondo dal 1 agosto farà pagare i bagagli a mano che non si riescono a infilare sotto il sedile. Il costo sarà però da 30 a 45 dollari a collo, quindi tutt'altro che trascurabile. La gabella più inverosimile è la toiletta a gettone, annunciata per il prossimo futuro dalla pioniera europea del low cost, la Ryanair, un tributo Pro VC di 1 euro a passeggero, che consentirebbe, secondo i calcoli appunto di Ryanair, di abbassare le tariffe medie di almeno il 5%. La conclusione di Alessandra Gerli dice: è la fine del tutto compreso. Oggi sugli aerei capita di pagare quasi tutto, dalla scelta del posto alle valigie, dai pasti alla coperta, e quello che fino a ieri era incluso nel prezzo del biglietto è diventato un extra a pagamento. Mentre tra le compagnie aeree low cost e non low cost si è scatenata una gara di fantasia nell'escogitare nuovi optional e inediti addebiti. C'è una trovata che merita di essere riferita. La compagnia è la American Airlines, quindi una compagnia notissima, ha appena varato un pacchetto a dei prezzi che vanno dai 9 ai 19 dollari, molto bassi, che al quale è possibile imbarcarsi sull'aereo tra i primi e accedere alla lista d'attesa per un volo diverso dal proprio senza ulteriori addebiti, oppure cambiare itinerario spendendo la metà. In pratica però, hanno fatto notare i primi utilizzatori, l'American Airlines è stata la prima compagnia a far pagare un sovrapprezzo per evitare di pagare dei sovrapprezzi, quindi uno paga in anticipo per non dover pagare dopo, qualcosa che forse gli servirà appunto poter cambiare l'aereo, eccetera. Si chiamano, leggo sempre da Alessandra Gerli su Panorama, questi ricavi si chiamano ricavi ancillari, quindi collegati appunto, serventi il ricavo maggiore che dovrebbe essere quello del biglietto, sono diventati una formidabile fonte per molte compagnie tradizionali. C'è poi un bel esempio sulle due pagine, serie di esempi sulle due pagine di questi sovrapprezzi. Ad esempio, appunto, l'opzione blocca la tariffa permette di congelare una tariffa interessante, però bisogna pagare per trattenere quella tariffa, quindi pagare un extra. Se volete un posto comodo nell'economy class, la Singapore Airlines ve lo fornisce, però c'è un supplemento da pagare per i posti magari nelle prime file o vicino alle uscite di emergenza, nel senso che lì c'è un po' più di spazio per le gambe, naturalmente non per altri eventi. Poi c'è proprio la scelta vera e propria del sedile. La British Airways la fa pagare dai 12 ai 25 euro, c'è il caro valigie che immagino molti di voi abbiano già potuto sperimentare, quindi non solo le eccedenze di bagaglio, ma un eventuale collo in più viene appunto costretto a pagare un supplemento. Del bagaglio a mano vi ho detto, e c'è anche chi fa pagare la disponibilità di coperte e cuscini. L'Air Canada l'ha cominciato a fare nel 2008, ma da febbraio lo fa anche l'American Airlines. Per avere una coperta o un cuscino bisogna pagare un extra di 8 euro. E infine il problema di chi è un po' sovrappeso, che si dice appunto gli extra large pagano a doppio, con poca eleganza si chiama fat tax, cioè appunto tassa sulle persone grasse. Ci aveva pensato la Ryanair, ma poi ha lasciato perdere. Sulle compagnie americane invece non c'è scampo. Quando il girovita impedisce di abbassare il bracciolo, i casi sono due: o ci sono due poltrone libere, quindi diciamo la persona sovrappeso, un po' sovrappeso, può accomodarsi sulle due poltrone senza pagare, oppure deve comprare un secondo biglietto e finisce lì qualsiasi discussione. Questi appunto alcuni dei modi in cui il low cost poi si trasforma in, almeno forse, in un medium cost, grazie appunto a questi supplementi, a queste trovate delle varie compagnie su Panorama. Cambiamo completamente argomento su Vanity Fair, torniamo su Vanity Fair, perché questa settimana c'è un'intervista a Claudio Amendola che decisamente incuriosisce. Il titolo è Aridateci la Naia, chiedo scusa se la pronuncia non è delle migliori per quanto riguarda la dizione romana. Claudio Amendola, perché colpisce questo titolo? Perché Claudio Amendola, ricorderete, è stato l'interprete di un film degli anni 80 che si chiamava Soldati 365 all'alba, che era molto duro nei confronti della leva obbligatoria, raccontava appunto molte delle cose difficili e anche traumatiche che hanno caratterizzato la cosiddetta Naia. Ma scrive appunto Marina Cappa, intervistandolo per Vanity Fair, 5 anni dopo l'alba. L'alba era il congedo, era questo il modo di indicare il congedo per chi ha fatto il militare. 5 anni dopo la fine della leva obbligatoria, i rimpianti e un appello di un attore che il soldato l'ha fatto solo al cinema, quindi diciamo lui parla un po' per esperienza di fiction e meno per esperienza diretta, però lui dice: sono un sostenitore della leva, tanto più adesso vedendo i risultati dell'abolizione. Secondo Amendola l'anno di militare era fondamentale per i ragazzi, che imparavano ad assumersi responsabilità, a vivere fuori casa, a rifarsi la branda, a non fare i fannulloni. Adesso questa esperienza non si fa più ed è venuto meno uno strumento di crescita e maturazione. Correttamente Marina Cappa obietta: beh, c'erano però anche i suicidi, le depressioni, le violenze nelle camerate. E Amendola dice: beh, i suicidi ci sono in moltissime situazioni, guardi cosa succede in carcere. In compenso dice: i miei amici che facevano il militare, si vedeva quando tornavano in licenza che erano più forti anche psicologicamente. E quindi insomma lui si spende decisamente per un ritorno della leva. Potrebbe essere accontentato, come segnala la stessa pagina di Vanity Fair, perché almeno in piccola parte, perché il ministro della difesa Ignazio La Russa, come forse già sapete, preme per una mini naia di 15 giorni che coinvolga ogni anno appunto 5.000 giovani tra 18 e 30 anni, e fatta appunto per dare una preparazione militare a una fascia più vasta della popolazione rispetto a quella che viene coinvolta attualmente. Infatti, traggo sempre da Vanity Fair, con la fine della Naya si è passati da un esercito di 340.000 uomini a 180.000, però di questi 180.000 ce ne sono quasi 100.000, 96.500 che sono ufficiali e sottufficiali e 80.000 sono volontari di truppa. Quindi non è sbagliato dire che in questo momento ci sono più comandanti che comandati, e i costi per il personale tra l'altro in questo modo lievitano, perché ovviamente chi ha gradi più elevati percepisce uno stipendio maggiore. Quindi ridateci la Naya. Da questa provocazione di Amendola poi una serie di dati sul servizio militare e anche su questa, la memoria di questa proposta del ministro della difesa Ignazio La Russa. Abbiamo parlato a lungo di vacanze in questa puntata di Magazine 24, siamo oramai vicini alla fine. Vi voglio ricordare che con Il Sole 24 Ore trovate in edicola il numero dei Viaggi del Sole dedicato questo mese al Salento, un posto d'Italia bellissimo, una regione bellissima, e tutte le indicazioni, le opportunità, le cose da fare, dal dove viaggiare, dove come viaggiare, dove dormire, cosa mangiare e dove mangiare, appunto come far divertire i bambini, visto che ci siamo occupati anche di vacanze dei figli. È in edicola con Il Sole 24 Ore il numero di Viaggi del Sole dedicato appunto al Salento. E concludiamo con una nota, come dire, non lieta sicuramente per noi, ma comunque ma certamente fastidiosa: le vuvuzelas o fufuzelas, secondo quale dizione vogliate adottare. Ovviamente a noi questo suono, noi italiani, non piace molto, visto l'esito del nostro mondiale, ma diciamo, come ha ricordato Seth nel numero che è disponibile da giovedì col Corriere della Sera, c'è il problema che adesso, se uno si è comprato la vuvuzelas, non sa cosa farsene, e quindi si danno dei consigli, insomma, per delle indicazioni su queste vuvuzela. Ci sono delle, appunto segnala 7, degli utilizzi adesso che vengono fatti per protestare. Anche gli ambientalisti, riferisce 7, che protestavano davanti al palazzo del consiglio abruzzese contro le trivelle in Adriatico, hanno utilizzato appunto le vuvuzela per protestare, per manifestare. Ci fa sapere sempre questa scheda di 7 che una vuvuzela può arrivare a 127 decibel di suono, il che significa 3 decibel in meno rispetto alla soglia del dolore, che è fissata ai 130, quindi il suono è effettivamente molto fastidioso. Se avete uno di questi oggetti in casa, beh, potete trovare ispirazione appunto e qualche informazione utile su 7. Con questa indicazione si chiude la puntata di oggi di Magazine 24, torniamo domani alle 8.30, grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie anche a Margherita Aina e Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare questa puntata. A domani.